pesce rosso? Io, quelli che sono, sai, è un po' come i trans, no? Tu sai che per diventare da uomo a donna, donna a uomo, vai in queste cliniche, ti fanno il lavaggio del cervello, ti bla bla bla bla bla bla. E poi quando hanno fatto il tutto, psicologicamente non si ammazzano. Quindi bisogna stare molto attenti anche per far mettere una firma, no? Quelli che mi sono convinti fanno bene, io per adesso no, ma non è detto che non la metta, lì di primo acchito la metterei.